GQ10, GQ10, c'è qualcuno? GQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Marco, ci sei? GQ10? Chi è avanti? Ciao, Natali. Ciao, Giù, buonasera. E beh, come va? Sì, come vuoi che vada. Forse il cane ha fatto il vaccino. Il cane è portato. E beh, d'altronde, bisogna fare anche quello, ci mancherebbe. Sì, ne sto tornando. Sì, io qui. Ma non sta piovendo in questo momento, no? Io sono dentro casa e non ho guardato fuori. Perlomeno, quando ero fuori io non stava piovendo. Ok, vabbè, domani penso che migliori un pochino comunque il tempo, Oggi era una giornata così un po' buia, con nuvolosa. Sì, ho capito. E infatti stamattina stava piovendo pure forte quando ho portato il cane. Beh, d'altronde. E dall'influenza tiene ripreso bene del tutto? Sì, sì. Ah, è meglio così. Tutto a posto allora, meglio così. E un sacco di gente se l'ha presa quest'anno l'influenza. Meno male, sino adesso sono stato fortunato, non mi ha preso. Il veterinario 20 giorni ammalato era. Addirittura, è una brutta influenza quest'anno. Tu pensa che ne sono già di influenza, però con la peste, con influenza suina, sì. Sono già molte tre persone. Qui a Sassari. Figuremo. Una addirittura, una donna, 35 anni, era incinta, ha avuto due bambini, dopo 20 giorni è morta di influenza suina. Te le immagini? Due gemelline. Tratta di vita crudele, per carità. Non è possibile. Adesso dimmi tu, cosa avrà fatto di male questa donna per morire così giovane? Sì, cosa avrà fatto? Oiaia. Poi vai tu e dici, devi avere fede. Fede di cosa? Il caffè di oggi in bagno lo butta a foglio, buco. Sì, basta. Oioi. Purtroppo. Vabbè, là. Io sto un po' in ascolto perché sto facendo cosa al consiglio della verità. Dopo già entro. Nataloide! Cosa mala sorte vuoi? E ogni tanto esce a Pizzu. Ciao Giulio. Ho ricevuto un collegamento. Un collegamento a questo David, ma se non è CP non lo apro nemmeno, non lo metto in lista. No. No, è uno che vende acquari, pesciolini, uccellini, eccetera. È uno che è di fianco a me lì, ogni tanto mi manda qualche cretinata e io te la volevo fare vedere. Ma quale hai ricevuto? Quel ragazzo che sta parlando, perché poi non l'ho nemmeno contato tutto io. No, io ho ricevuto solo un collegamento a questo David B. Come dire, mettilo assieme, è un messaggio strano era appunto, ma non l'ho messo in... Ma questo dov'è che li vende gli acquari? Cioè la roba per animali, agli punti oppure dove c'è la falegnameria? Andiamo su Cievi, a fianco a bottega, che poi ormai non è più bottega, ormai è trasformata. Sì, di fianco, non è David, è Davide Biosa si chiama quello, è un negozio di acquari e mangimi per animali, eccetera, eccetera. Ah, lì ci sono stato più volte, lì avevamo preso i pesci rossi, abbiamo guardato tutti gli animali che aveva, tutte le attrezzature, me lo ricordo quello, sì. Ah, lì vicino c'è la bottega tu. Rialzo. Sono il portone del palazzo che ci divide. Lo stabile è sempre lo stesso. Stabile. E vabbè, ormai non è più bottega, ormai è smantellata e ho diviso, insomma, sto facendo l'ufficio per mia figlia. Ho sentito qualcuno che usciva male, che è? Per un istante l'ho sentito. Avanti, c'è qualcuno che vuole entrare? Ho sentito un attimo, di bianco, ho sentito questo brr brr così. Come ce l'aveva quel troioso di Stefano, eh? Oh, Stefano, ci sei. Ma Stefano c'è bene, questo sembrava Capri 2 quando sta strappando al massimo col K. Perché attrappa, Capri 2 attrappa. Sono rare le volte che appena entra esce bene, deve regolare tutto. Io sto scavando le pizze, dai. Pizza al trancio, una cosa che vendono qua vicino. Mamma l'ha pesantemente condita, ma io la volevo nature. Va bene, sto scavando roba. Natali, cosa stai facendo? Roba al computer? Non me ne parlare che io mi sto... Come dire, sto diventando cieco con questo smartphone. Sperimenta. E beh, boioso, non parli. Beh, tu scaldi la pizza, io la mangio stanotte. Oggi è anticipata, sono di solito giovedì. Anzi, la settimana scorsa addirittura l'abbiamo ritardata, l'abbiamo fatta di venerdì, però siamo andati fuori, con i miei fratelli, eccetera, lì alla piazzetta, come si chiama? Accidente si chiama. Su, alla piazzetta, Marco, un ristorante. Ma quello che c'ha quel graticcio tutto intorno? Su, alla piazzetta, cosa della piazzetta? Su, in alto, ci sono delle attività, no? E c'è un ristorante che fa anche la pizza. C'è una parrucchiera, e insomma ci sono dei negozi che stanno facendo la fame qui, sono una pizzeria, il ristorante lavora molto, anche il parrucchiere lavora molto. No, il Burladè l'ho sentito nominare, però non sono andato io. Va bene, dai, qua mi è suonato il timer, dai, devo andare. Ciao a tutti, lascio acceso comunque. Ciao a tutti, anch'io me ne vo. Babu, ciao Marco, ci sentiamo allora. Ciao Natalia. Prossima, dai. Sì, allora chiudo, dai. Ci sentiamo, ciao. Adesso scopra 29 e Mastrasca è. Devo accendere un cero alla Madonna per aver sentito Antonello Riocci finalmente in radio. Buonasera a tutti. Ehi Antonio, ma come mai non entri più come una volta? Ciao Capri. Ah, Capri 2, quando parla sembra una matracca. È molto forte di radio, molto anche poco bello, scorrevo nel parlare, tra, e perciò ho detto sembra una matracca. Ciao Capri, riprendi. Lo passo. Siete quasi pari. Collocamento, tanto è inutile, mi sono arreso, poi anche fisicamente sono messo abbastanza male, quindi altro che lavoro. Va bene, detto ciò, io ero di passaggio, scusate, saluto tutti e chiudo. La radio era accesa tutta la sera, è entrato verso le 6 natalino, Giulio, adesso sta mancando Claudio perché sta facendo molte commissioni, insomma c'è roba da fare, e il 10 è un po' semi abbandonato, dai, come canale, il 23 è molto più attivo, oppure in PMR. Vai Antone. Passando tra le maglie di, come si chiamava quello che tu hai conosciuto che vende mobili, mannaggia non mi viene il nome, mondo, no, un po' di gente sta passando tra quelle maglie di quello là, capito, personale usa e getta, capito, hanno personale usa e getta, li sfruttano un po', poi magari mandano via e ne pigliano altri. Mondo convenienza, eccolo. Ma ore da orario da proprio da schiavisti, e poi cose indicibili ci vedevano lì dentro, ma vi detto. Ma poi non vada matti, un contratto in bianco o un licenziamento, è chiaro che uno si licenzia, magari firmi e ti fanno fare 20 ore al giorno, che ne so io, quelli sarebbero capaci. Nemmeno andato a vederlo questo mondo convenienza, perché dei mobili non ho bisogno, non sono proprio nemmeno andato, però un bel di gente so che ci sta passando con questo mondo convenienza, mamma mia. E comunque se è quella la loro strategia per i lavoratori, a farti firmare fogli bianco, contratti capestro magari, mamma mia, non te ne meglio niente, guarda. Allora io vi saluto, rilancio Capri 2 e vi saluto, ci sentiamo in altre occasioni, dai che ormai è tardi. Ciao a tutti, buona serata, buon tutto. Vai Capri. Thank you. Puccio, sono Gallinare. Ci sentiamo al limite dopo.